L'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia, questa è l'altra Europa, sigla nuova, musiche nuove, insomma si cambia e oggi così partiamo con questo nuovo ritmo che accompagna tutti i programmi targati Euronet, il network di radio europea al quale apparteniamo. Il sabato siamo qui con l'altra Europa per raccontare storie, persone, possibilità, opportunità che arrivano dall'Unione Europea, le coordinate per seguirci anche sulle nostre piazze virtuali, chiocciola Euronet Plus R24 oppure il mio account personale chiocciola Federico Taddia, lì ci trovate su Twitter e su Facebook, lì potete trovare tutti i link relativi agli argomenti che andiamo a toccare. Oggi è il 25 aprile, parleremo anche di quello, parleremo di Expo perché manca pochissimo, ma partiamo da quello che è il cuore attualmente dell'Europa, Lampedusa. Tragedia di quello che è accaduto nel canale di Sicilia pochi giorni fa, gli sbarchi che continuano, l'Europa che sta cercando di prendere una posizione, che sta cercando una soluzione. E in tutto questo c'è Lampedusa, Lampedusa da sempre, più che una metafora, è la porta, è il luogo dove tutta questa tragedia assume una quotidianità. Quindi oggi vogliamo partire da Lampedusa con un'iniziativa. È stata inaugurato infatti il 18 aprile il centro turistico Acli, CTA, dove è stato inaugurato un infopoint che si chiama I Love Lampedusa, per dotare l'isola di un servizio informativo utile al rilancio del patrimonio locale e alla sua valorizzazione per rilanciare Lampedusa come capitale d'Europa. Di tutto questo ne parliamo con Giuseppe Vitale, presidente nazionale CTA, che è il centro turistico Acli. Ciao Giuseppe, buon sabato, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno a voi e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Perché la scelta di essere presenti con un infopoint a Lampedusa? Che significato ha? Naturalmente non ha solo un'evidente valenza simbolica, ma un concreto segnale di sostegno alle attività turistiche dell'isola. Perché si vuol proporre una forma alternativa di turismo, un turismo che sia un turismo sostenibile, che sia un turismo lento, che sia un turismo nuovo? Certo, noi, penso alla mia mente, ma la mente anche di molte persone, pensa a Lampedusa, sempre barconi, profughi, rifugiati, e questo solo perché è una terra, diciamo, di facile approdo, terra di confine, ma invece non va diciamo pensata o immaginata solo come un'isola di sbarco, ma che va ricordata per le sue, diciamo, bellezze delle spiagge, l'isola dei conigli, le risorse paesaggistiche e la cosa principale, l'accoglienza calorosa della propria gente, della sua gente. E proprio per questo diciamo che merita essere visitata, e naturalmente non da un sconosciuto turismo di massa, ma da un turismo intelligente che, oltre a, diciamo, ad ammirarne le bellezze, ma ha il desiderio di essere partecipe della loro vita quotidiana. Ecco, in questa ottica qual è il legame, qual è l'abbraccio tra Lampedusa e l'Europa? Ma noi diciamo che da un anno che stiamo, diciamo, lavorando sul progetto Il Love Lampedusa, per dare una possibilità all'isola di ritornare alla normalità, e questo con un apporto da parte nostra e da parte di tutte le associazioni di ispirazione turistica e di ispirazione cristiana lo stiamo facendo e lo faremo, quindi daremo il contributo non soltanto con l'inaugurazione o con la messa in opera di un infopoint che possa dare informazioni ai turisti che arrivano, ma anche attraverso lo sviluppo di un turismo responsabile e sostenibile, e candidando anche Lampedusa poi come capitale europea del turismo. insomma, che sarebbe sicuramente un passo importante. Qual è stata la reazione dei cittadini? Allora, noi abbiamo avuto un'accoglienza già l'anno scorso, quando siamo stati a fare un sopralluogo con i nostri partner, che oltre il CTA, le ACLI, c'è anche la CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, c'è il Forum del Terzo Settore, quindi diciamo siamo andati in una delegazione e abbiamo avuto un'accoglienza da parte delle istituzioni, da parte del sindaco, da parte della Chiesa eccezionale, e ci hanno seguito fino ad arrivare all'inaugurazione. La gente un po' inizialmente un po' incuriosita di questo gazebo, però dopo ha chiesto informazioni, perché non c'è un punto, non c'era e adesso c'è un punto di informazione che non è soltanto dal punto di vista turistico, ma anche dal punto di vista degli eventi, delle iniziative, anche diciamo poter gestire diciamo le serate, gli eventi locali, insomma è un punto dove di ritrovo, perché è dotato di wifi, è dotato di internet, quindi diciamo è possibile che questo gazebo sia la funzione, punto di riferimento per tutti i lampedusani. In più aggiungo, noi abbiamo anche presentato un progetto che ci è stato approvato del servizio civile, e da settembre partiranno due volontari per il servizio civile su un progetto Tutti in Viaggio del CTA nazionale. Anche questo è assolutamente significativo. Dall'altra Europa all'altra Lampedusa. Ringraziamo Giuseppe Vitale, presidente nazionale CTA, in bocca al lupo per questo InfoPoint. I love Lampedusa. Buon sabato. Grazie a voi. Grazie. Adesso un Europost-it, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua con l'altra Europa. Europost-it. Urbact 3, al via il nuovo bando per le città sostenibili. È stato pubblicato il primo bando del programma europeo Urbact 3 per le Action Planning Networks, le reti per i piani locali. L'obiettivo principale della call è quello di migliorare le capacità delle città europee di gestire politiche urbane e di rafforzare la programmazione di strategie integrate per lo sviluppo sostenibile. Prendendo parte alle reti, le città possono condividere pratiche, esperienze, problemi, soluzioni ed idee. Se volete candidarvi o se siete alla ricerca di partner e idee di progetto, consultate il sito urbact.eu/projects. Il bando scade il 16 giugno. L'altra Europa. Come ti chiami? Giulio? Maurizio. Ma scusa, che giorno è oggi? 25 aprile 1945. E perché sei così contento? Abbiamo fatto festa. Abbiamo bevuto la cioccolata. E perché? È finita la guerra. Quando l'hai saputo? A mezzogiorno. Stamattina. Dove eri? Nell'orto. In casa. Con chi? Con i miei amici. Con i miei genitori. Che cosa facevi? Stavo giocando con i petardi. Stavo giocando con la palestrina. E come ti? È 25 aprile 1945, due bambini in una sorta di intervista doppia stile Iene raccontano la loro liberazione. Con questo video i ragazzi dell'Istituto Littardi di Imperia hanno vinto il concorso europeo Memory and Engagement for European Citizen, promosso dall'assessorato attività educative del Comune di Imperia. L'Europa che ricorda il 25 aprile lo fa con questo importante, con questa importante iniziativa, un video molto bello e molto divertente, un modo con il quale i bambini di oggi si sono messi nei panni dei bambini di ieri. Anche questa è l'Europa, ma continuiamo a rimanere in tema 25 aprile e lo facciamo con la musica. Side of Love, questo è il singolo di Jack Savoretti, cantautore italo inglese. Le sue origini sono genovesi, sono ligure, nonno partigiano, e l'influenza del nonno si sente anche nella voglia del fare musica impegnata, un songwriter, è in tour in Italia in queste settimane. Abbiamo il piacere di averlo qua con noi. Ciao Jack, benvenuto all'Altra Europa. Ciao, grazie mille, ciao. Allora, siamo partiti dal 25 aprile, siamo partiti da queste origini forti, queste origini importanti. Sì. Cosa significa per te avere un nonno partigiano? Ma guarda, il fatto è un onore per me, solo il fatto che stiamo parlando, che ho questi collegamenti importanti nella famiglia, solo questi mi fanno tantissimo, grandissimo onore. 25 aprile è un giorno che è molto importante perché, a parte il fatto che è importante per il paese, per la mia famiglia era importante perché mio nonno, da capo dei partigiani liguri, a un'età di 24-25 anni, più giovane, che ha firmato proprio il documento della liberazione. Erano in 6 a firmarlo e lui era uno dei 6 che ha firmato questo documento che liberava la Liguria. Quindi è una cosa, è una storia con cui sono sempre cresciuto. C'è un monumento a Genova, c'è anche una strada, quindi è una cosa di cui ero sempre molto fiero, e adesso solo il fatto che vengo collegato a mio nonno mi fa grandissimo onore. Jack, cosa significa per te essere di fatto un cantante inglese, ma appunto anche italiano, ma soprattutto europeo? Quanta Europa c'è nella tua musica? C'è tanta Europa, perché io sono un po' il risultato della Seconda Guerra Mondiale. Mia madre è nata a Londra, però è nata una madre tedesca che si è innamorato di un vero polacco. Non era molto non era molto popular, se così si può dire, essere una coppia del genere a Monaco di Baviera negli anni 30, quindi sono scappati a vivere a Londra. Certo. Quindi da tutte e due le parti c'ho storie abbastanza importanti nel DNA legate alla Seconda Guerra Mondiale, specialmente, e più che altro, ma legate all'Europa. Uh-huh. Questo è un po' ormai la norma per noi, per la mia generazione, specialmente per la generazione ancora più giovane, però questa è la cosa bella dell'Europa, che stiamo diventando un po' tutti un po' più europei. Certo, e com'è girare l'Europa con questa chitarra, con questa voce ruvida e appassionata che ti accompagna? È bellissimo, perché sai, cioè, ci sono tante differenze tra culture, ma ci sono tantissime cose che ci collegano. Io sono molto un pro-europeo, sono uno che adora l'Europa. È un paese, è una parte del mondo che mi affascina, poter girare paesi diversi, essere in piazze che fino a 40 anni fa io forse non avrei potuto camminare, o certe persone non erano accolte bene, invece adesso c'è un'armonia non perfetta, ma in confronto a tante altre parti del mondo un'armonia veramente incredibile, è una cosa di cui dovremmo essere più fieri. Jack, questo ritorno invece in Italia, questo ritorno con questo tour, come sta andando? Ma è incredibile, se devo essere onesto, ogni sera ci stiamo un po' emozionando, perché non ci aspettavamo questa accoglienza, non ci aspettavamo questi numeri, se vogliamo dire, di persone che vengono a vedere il nostro show, e per questo ci stiamo divertendo molto. Poi qua è già quasi estate, quindi non ci possiamo lamentare. Assolutamente. Ti definisci un cantautore o preferisci songwriter, che insomma non è solo una traduzione, forse è qualcosa di diverso, qualcosa in più? Ma guarda, mi sono sempre molto ispirato ai cantautori italiani. Okay. Sono cresciuto con Battisti, che è sempre stato, poi con mio padre, che era un immigrante che viveva a Londra, quando lui metteva la musica italiana lo ascoltava in modo diverso, lo ascoltava con malinconia, con amore, era una cosa seria, quindi ero sempre affascinato dal potere che avesse la musica italiana su mio padre. Quindi ero sempre molto preso da questo modo, l'uso del linguaggio in italiano è intraducibile, perché non è solo una questione di lingua, ma è anche una questione di feeling e di cultura. Uno, se non è italiano, è difficile capire tanto della musica italiana, perché c'è tanto Italia dentro alla musica. Grazie davvero Jack, in bocca al lupo. Salerno e Roma, le prossime tappe il 28 aprile all'Auditorium Parco della Musica, dove si chiude questo tour. Complimenti e grazie per averci raccontato la tua Altra Europa. Ciao, buon sabato. Grazie mille, grazie, ciao. Europostit. Settimana Europea della Gioventù 2015. La Commissione Europea lancia la 7ª edizione della Settimana Europea della Gioventù, che avrà luogo tra il 27 aprile e il 10 maggio 2015. In programma tantissimi eventi, sia a Bruxelles, sia a livello nazionale, regionale e locale, in tutti i paesi dell'Unione Europea e del programma Erasmus+. Le tematiche della Settimana Europea della Gioventù di quest'anno sono la liberazione del potenziale dei giovani e la partecipazione dei giovani alla vita lavorativa e alla società in generale. Tematiche che saranno al centro di incontri, dibattiti, mostre, workshop e laboratori di idee. Gli eventi saranno coordinati dall'Agenzia Nazionale per i Giovani in collaborazione con la rete italiana Eurodesk. Per consultare il programma potete visitare i siti agenziagiovani.it, youthweek.it e youthportal.eu. Ombudsman, noun, Swedish from Old Norse, ombudsmeder, representative, plenipotentiary. An independent body appointed to represent interests of citizens by investigating or responding to individuals' complaints about maladministration or infringement of rights. That, in a nutshell, is what we do at the Office of the European Ombudsman. What is unique is that we do not. Scade il 30 aprile il bando per tirocini come mediatore europeo, che iniziano il 1 settembre a Strasburgo e Bruxelles. Quindi c'è questa opportunità reale per diventare mediatore europeo. La figura a cui sono rivolte le denunce che coinvolgono istituzioni e organismi dell'Unione Europea. Ci piaceva questo bando, ma ci piaceva approfondire appunto il ruolo del mediatore europeo. Abbiamo la possibilità di farlo con Filip Hamovic, giurista che lavora nel team del mediatore europeo. Ciao Filip, benvenuto all'Altra Europa. Ciao Federico. Ciao. Tu non sei italiano? No, io non sono italiano, io sono tedesco. Però parli bene italiano. Hai vissuto in Italia? Ho vissuto in Italia, sì, sono cresciuto a Verona. Ah, ok. Ho una parte della mia maturità lì giù. Ho capito. Filippo, che cos'è al di là delle questioni burocratiche, al di là di quello che dicono i documenti? Chi è il mediatore europeo e chi si rivolge a questa figura? Guarda, allora il mediatore europeo, possiamo dire che sono... A è una persona, è la mediatrice europea Emily O'Reilly, l'attuale, la terza mediatrice europea, è originariamente una giornalista, ma in verità siamo una piccola istituzione di più o meno 20 giuristi più dei servizi di supporto, in totale siamo 70 persone, ci occupiamo di, come hai detto tu, le denunce relative ai casi di cattiva amministrazione nelle istituzioni. Effettivamente trattiamo un po' di tutto, guarda, ci occupiamo di denunce presentate da individui, compagnie, associazioni e relativa a contenziosi contrattuali, accesso a documenti in merito a, per esempio, alla trasparenza e altre cose. Mm-hmm. Quindi singoli cittadini che hanno delle lamentele o hanno delle proteste, comunque pensano ci sia un'ingiustizia nei loro confronti, possono fare denuncia. Possono fare denuncia, sì, il problema è che molto spesso riceviamo anche tante denunce da cittadini italiani, anche considerato il fatto che in Italia non esiste questa istituzione o come un mediatore nazionale, perciò tanti italiani si indirizzano a noi con delle denunce contro le istituzioni italiane. Il problema è che il nostro mandato è molto preciso e noi, come detto, ci occupiamo semplicemente di denunce contro l'amministrazione dell'Unione Europea, perciò come la Commissione Europea e il Parlamento Europeo, perciò non ci possiamo occupare di denunce contro le autorità italiane. Ho capito, e adesso è partito questo bando che si conclude il 30 aprile per i tirocini, e so che in particolare state cercando però anche una persona parlante italiano? Sì, questo è vero. Allora, noi siamo, come detto, più o meno 20 giuristi. Sì. Il problema è che ti puoi immaginare l'Unione Europea molto grande, 20 giuristi, trattiamo più o meno 2500 denunce all'anno. Sì. Siamo un team di esperti multilinguali, parliamo, come vedi, anche nel mio caso sono tedesco ma parlo più o meno bene l'italiano. Al momento non abbiamo un collega italiano, perciò sono io ed una mia collega finlandese che ci occupiamo di denunce presentate dagli italiani. Ho capito, c'è un sito di riferimento per tutte le informazioni? Certamente, noi abbiamo il nostro sito, è il www.ombudsman.europa.eu, c'è una sezione che si intitola Assunzioni e lì ci sono tutte le indicazioni come presentare domanda per fare un tirocinio da noi. Perfetto, il 25 aprile si parla di diritti, anche il mediatore europeo rientra assolutamente in questo ambito, nella difesa dei diritti dei cittadini. Grazie davvero Filippo e buon lavoro. Grazie, ciao ciao. Ci fermiamo, la pubblicità, poi ancora qua con l'altra Europa. Europostit. Tirocini al Parlamento Europeo. Sognate di diventare traduttori? Vi piacerebbe svolgere un tirocinio di 3 mesi all'estero? Il Parlamento Europeo offre tirocini retribuiti a traduttori titolari di un diploma di laurea, con l'obiettivo di consentire ai partecipanti di completare le conoscenze che hanno acquisito nel corso dei loro studi e di prendere dimestichezza con l'attività dell'Unione Europea. I tirocini per traduttori si svolgono in Lussemburgo presso la Direzione Generale per la Traduzione e l'Interpretariato. Troverete tutte le informazioni sul sito del Parlamento Europeo europarl.europa.eu nella sezione Lavorare al Parlamento. Le candidature devono essere inviate entro il 15 maggio. L'altra Europa. This spring, experience Europe like never before. Meet Sylvia and Alex. Two different personalities mixing together. But will it make the perfect recipe? Get ready to be surprised. Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è l'altra Europa, il programma in collaborazione con il network Euronet Plus. Vi ricordo Euronet Plus R24 pure @ Federico Taddia per trovarci anche su Twitter e su Facebook. Allora, quello che avete ascoltato è il trailer del cartone animato che vede protagonisti Silvia e Alex. Chi sono? Sono i testimonial scelti dall'Unione Europea per Expo. Ci siamo, venerdì 1 maggio verrà inaugurata l'esposizione universale e, come già avevamo anticipato qualche settimana fa, ci sarà l'Europa, ci sarà un padiglione europeo a Expo, oltre 200 eventi in programma, una vetrina importante, una presenza importante. Ne parliamo con il direttore del padiglione dell'Unione Europea a Expo 2015, Matteo Fornara. Ciao Matteo, ben ritrovato all'Altra Europa. Salve, buona giornata a tutti. Allora, manca poco meno di una settimana, ti faccio la domanda che tutti ti staranno facendo da giorni: è tutto pronto? Tutti me la fanno. Un tormentone. Sarà tutto pronto venerdì. Ok. Allora Matteo, ricordiamo perché l'Unione Europea ha deciso di esserci ad Expo e in che modo vuole esserci? E innanzitutto direi che il tema scelto per Expo Milano è un tema fondamentale anche per le politiche europee. L'alimentazione vuole dire sicurezza alimentare, ma vuole anche dire politiche di sviluppo. Vuole dire anche lotta agli sprechi, vuole dire anche cooperazione internazionale, quindi sono diversissime, politica di tutela dei consumatori, diversissime le sfaccettature del tema. Questa è la ragione fondamentale, tant'è che poi noi contribuiamo sia dal punto di vista delle visite, delle esibizioni, dell'apertura ai cittadini, che dal punto di vista scientifico con un solido programma di eventi che organizziamo non solo nel padiglione, ma direi un po' in tutta la città. Mm-hmm. Quindi una presenza appunto diffusa su tutta la città. Tanti appuntamenti importanti, oltre all'inaugurazione, già il 9 maggio, festa dell'Europa, ci saranno più di 1000 persone che avranno la possibilità di incontrare e intervistare il Presidente del Parlamento Europeo Schulz e il Commissario Mogherini. Com'è strutturato il padiglione europeo? Esattamente, noi tra l'altro facciamo anche un po' la cavia dentro all'Expo per le giornate nazionali, perché pur non essendo una nazione ma un'unione tra stati, siamo quelli che hanno la prima grande giornata nazionale all'interno di Expo il 9 maggio, come tu dicevi, tutti sanno che è la festa dell'Europa. Noi questa giornata la organizzeremo non solo nel nostro padiglione ma in tutti gli spazi di Expo. Certo che il nostro padiglione sarà il centro di tutto, perché ospita questa storia che è la storia di un agricoltore e di una ricercatrice, Alex e Silvia. Sì. Che dicono a tutti, diranno a tutti i nostri visitatori quello che l'Europa fa e come lo fa nell'interesse dei cittadini, non solo dei cittadini europei ma diciamo di tutti dei 9 miliardi anche di persone che vivranno sulla Terra nel 2050. Ti faccio una domanda, Matteo, che pare strana farla ora, una settimana prima dell'inaugurazione. Vorrei portarti alla conclusione di Expo. Tante volte si dice che Expo è una vetrina, ma questo credo sia un'accezione limitante, perché Expo deve lasciare qualcosa, forse più un seme che deve piantare appunto un qualcosa che poi cresca. Cosa vorresti che rimanesse da questo padiglione europeo? Certo, io vorrei che tutti i nostri visitatori innanzitutto capissero che l'Unione Europea è un valore aggiunto, è un po' il nostro messaggio principale nel padiglione: uniti nella diversità, lavorare insieme per ottenere dei risultati più importanti e anche magari per garantire un futuro migliore, come diciamo nel tema della nostra partecipazione. Questo è il lato popolare, che per noi è probabilmente quello fondamentale, si rivolge soprattutto ai giovani. Poi c'è il lato scientifico, che invece vuole contribuire alle iniziative, dalla Carta di Milano alle varie altre iniziative che saranno prese a livello internazionale durante e soprattutto dopo Expo, per affrontare tematiche fondamentali. Se qualcuno poi avesse dei dubbi sull'utilità, si possono anche citare tematiche un po' più concrete e a corto termine, come per esempio quella sulla contraffazione, che interessa molto le autorità italiane e che noi condividiamo in pieno. Insomma, cerchiamo di dare un senso vero anche proiettato nel futuro alla nostra partecipazione. Un grazie a Matteo Fornara, direttore del padiglione dell'Unione Europea Expo 2015. Matteo, ci risentiremo sicuramente nel corso di questi 6 mesi, perché insomma l'altra Europa c'è all'Expo e noi vogliamo accompagnarla. Ciao e grazie, buon lavoro. Grazie a tutti. Ciao. E buon Expo a tutti. Buon Expo a te. E c'è un'altra faccia molto ricca, molto bella, molto sorprendente anche, che riguarda il padiglione dell'Unione Europea, ed è la carica dei volontari. Si cercavano giovani che avessero voglia, desiderio di fare questa esperienza. Sono arrivate quasi 2500 domande, ma stanno arrivando ancora, perché la selezione è ancora in atto, e abbiamo la fortuna e la possibilità di avere un paio di volontari che invece sono stati scelti e selezionati. Allora con noi c'è Sara Laura Bossa, 26enne di Milano. Ciao Sara. Ciao. Ciao, eccoti qua. Allora, sei pronta? Sì, dai, abbastanza. Allora, tu come mai hai scelto di fare la volontaria e in cosa consisterà il tuo lavoro, già, se già lo sai? Allora, intanto appena sono venuta a conoscenza di questo bando dell'Unione Europea mi sono subito interessata. Prima di tutto per l'importanza del tema che tratterà l'Expo, che è appunto l'alimentazione e la nutrizione, e perché credo che l'Unione Europea in quest'ambito abbia molto da insegnarci. Uh-huh. E diciamo che questo evento potrà diffondere maggiormente le loro politiche agricole e tutto l'impegno che ogni giorno viene messo anche, diciamo, per la salute di tutti noi cittadini. Tu hai studiato relazioni internazionali, ma leggo che sei appassionata di politiche agricole. Da dove nasce questa passione? Ma in realtà è una cosa un po' legata anche alla mia infanzia, cioè mi è sempre piaciuto, quando andavo in campagna un po' mi affascinava il mondo contadino. Mm-hmm. Quindi da questo, cioè dal vederlo proprio di persona, man mano con i miei studi mi sono anche un po' interessata a quello che avveniva, diciamo, agli alti livelli. Certo. Ci sono state molte polemiche proprio in questi giorni, anche di tanti giovani che hanno fatto le selezioni per un'occupazione dentro ad Expo, poi magari hanno rifiutato perché insomma le condizioni non erano abbastanza gradite. Tu hai scelto di fare la volontaria. Cosa ti ha spinto a dedicare tempo, energia, passione anche? È solo la sete di conoscenza, solo la sete di toccare da vicino realtà che non conosci? Ma come dicevo, un po' sia l'interesse per la tematica, che secondo me è una delle questioni primarie, perché assolutamente se noi ci impegnassimo nel non sprecare e nel risuddividere meglio le risorse, credo che potremmo vivere in un mondo migliore probabilmente. Quindi prima di tutto questo, e poi anche l'idea comunque della collaborazione con gli altri, la socialità. Cioè, ho anche fatto altre esperienze nelle quali comunque non mi mettevo in gioco solo per diciamo avere un mio ritorno personale, ma certo, perché ritenevo anche utile, importante confrontarsi, stare insieme agli altri e diciamo metterti in gioco. Ci ha raggiunto anche Davide Di Silvestre, anche lui volontario, 19 anni di Legnano. Ciao Davide, giovanissimo, ciao. Studi economia. Mi dicono che sei molto europeista, cosa significa per te essere europeista oggi? No, beh, certo, il padiglione sarà presente anche il premio Nobel che ha ricevuto l'Europa per la pace. Essere europeista per me significa stare dalla parte di chi cerca la pace, perché l'Europa, punto primo, ha creato le condizioni per mantenere per 70 anni la pace nel nostro continente. Insomma, quindi è già tanto ed è una, appunto, uno dei traguardi più importanti. In una battuta, Davide, perché hai scelto di fare il volontario? Beh, ho scelto di fare il volontario perché volevo anzitutto far parte di questo gigantesco evento che sarà Expo Milano 2015, e ho scelto di far parte del padiglione Europa anche perché volevo partecipare alla diffusione dei valori dell'Unione Europea tra persone che spesso non si rendono conto di quanto sia importante il lavoro della Commissione, del Parlamento e di tutte le istituzioni europee per ogni cittadino. Si vede sempre l'Europa lontana, l'Europa del sistema, l'Europa delle grandi istituzioni finanziarie, non si vede quanto effettivamente l'Unione Europea abbia cambiato le nostre vite dal punto di vista positivo. In bocca al lupo, che sia una bella esperienza. Grazie a voi. Ciao Sara, ciao Davide. Ciao, grazie. Ciao. Ci fermiamo, le informazioni per chi sta viaggiando poi ancora qua con l'Altra Europa. L'Altra Europa. Welcome to Europe in an Italian Minute. This week all the news in Italy has been about the arrival and the start of the spring quote unquote season of arrivals of migrants on Italian shores trying to make their way across the Mediterranean to transit through Italy to other parts of Europe. L'Europa in un minuto italiano. Quello che state ascoltando è l'ultimo video, è stato pubblicato venerdì, si intitola Europa, Italia e la questione migrante. Le potete trovare questi video sul sito eunews.it. Sono video che cercano di raccontare le questioni europee da una prospettiva italiana in lingua inglese. Una narrativa per una nuova Europa. Questo è il titolo della cattedra che tiene Vincent Della Sala, canadese di origine italiana, docente di scienze politiche presso l'Università di Trento, ed è lui il protagonista di questi video. È lui che ha scelto di raccontare l'Europa, l'Italia, l'Europa e l'Italia in questo modo. E Vincent Della Sala è qua con noi. Ciao e benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buon sabato Vincent, ciao. Grazie. Tanto partiamo. Quanto è lungo un minuto italiano? Un minuto italiano può andare da 2 minuti fino a 5 minuti. Siamo molto elastici su questa cosa. E infatti abbiamo pensato a questo titolo anche di non vincolarci nei tempi, perché è difficile di essere conciso in un minuto. Allora abbiamo pensato così. Certo, tratti l'attualità da una prospettiva italiana in chiave europea. Come si contaminano questi punti di vista? In effetti è in parte l'attualità e in parte anche di cercare di capire il ruolo dell'Italia in Europa e l'importanza dell'Europa per l'Italia. Dunque abbiamo delle puntate dove trattiamo degli argomenti che sono di attualità, come l'immigrazione e gli sbarchi. Altre puntate invece riflettono su anche la ricerca ricerca che è stata fatta sull'Italia, che io ho fatto io, anche i miei colleghi, sull'Italia, di cercare di capire il ruolo dell'Italia in Europa e come l'Europa è stata e continua a essere così importante per la vita sociale, politica e economica dell'Italia. La scelta di fare questi video in lingua inglese perché si vuole parlare a tutti? Cioè, tu non ti rivolgi agli italiani di fatto? La scelta era molto combattuta, nel senso abbiamo anche pensato a fare due puntate, una in italiano e l'altra in inglese, ma abbiamo pensato che sempre di più gli italiani hanno una facilità con l'inglese, allora non escludiamo gli italiani, e infatti chi è interessato in Europa molto probabilmente non ha problemi con l'inglese. E poi abbiamo anche pensato che vogliamo spiegare l'Italia al resto dell'Europa, ma anche di fare capire l'importanza dell'Europa nella vita italiana per chi è in Italia, ma certamente anche per chi è fuori. Spesso, particolarmente nel resto dell'Europa, ci sono dei luoghi comuni sull'Italia, sulla sua politica, e si cerca di capire le posizioni dell'Italia su alcuni argomenti in Europa sulla base di questi luoghi comuni. Cerchiamo di ragionare un po' in un modo un po' più approfondito. Certo, nel centro Jean Monnet di Trento tu tieni questa cattedra su narrativa per una nuova Europa o una nuova narrativa per l'Europa. C'è un modo nuovo per raccontare l'Unione? Questo spero in questi tre anni di questa cattedra, in questa ricerca, di cercare di capire se ci sono nuovi modi di capire l'Europa e di capire una nuova Europa. E queste nuove narrative, l'idea del progetto mi è venuto pensando al progetto dell'ex presidente Barroso, che aveva chiesto all'Europa per trovare una nuova narrativa. Voglio esaminare se ci sono narrative, se ci sono dei miti, se ci sono dei simboli che possono emergere, e l'idea anche poi di fare questi video era anche di partire dalla premessa che queste nuove narrative anche partono dai punti di vista nazionali che abbiamo dell'Europa, e di sperando di aprire un dialogo con altri punti di vista nazionali e di creare questa nuova narrativa, o di trovare questa nuova narrativa tramite anche questa ottica nazionale. E gli studenti cosa cercano? Quali sono le domande che ti fanno? Sono orientati o disorientati in questo momento nell'approccio con l'Europa? Insegnare sull'Unione Europea, questo è un buon momento per insegnare sull'Unione Europea, perché la crisi per un politologo purtroppo per la società è un peso, ma per un politologo è come una mina d'oro. D'oro. E gli studenti cercano un po' di... noto negli ultimi 10 anni sono diventati, non dico euroscettici, ma quell'entusiasmo che c'era 5-6 anni fa che trovavo nei studenti del terzo anno di una triennale, eccetera, eccetera, non si nota più. Chiaro, la crisi ha avuto un impatto, ma c'è può darsi una posizione un po' più realista. Dunque, la cosa che loro chiedono è come possiamo pensare a un'Europa che si sta ripiegando sempre di più a livello nazionale. È possibile che questo progetto può continuare ad andare avanti, e con quali limiti? E adesso quella è la domanda che fanno di più: quali sono i limiti adesso di questo processo di integrazione? È una domanda che anche 5 anni fa non si faceva. Oggi mi trovo che devo rispondere sempre di più. Insomma, una domanda interessante, cercheremo anche noi la risposta, magari e anche attraverso i tuoi video, ricordo www.eunews.it per vederli ogni settimana. Grazie a Vincente Della Sala, docente di Scienze Politiche presso l'Università di Trento. Ciao e buon lavoro, buon sabato. Grazie, grazie. E questo ciao va a tutti voi, grazie come sempre per essere stati in ascolto. Un grazie a tutta la squadra, Miriam Lucchetti e Silvia Righini. Oggi alla parte tecnica c'era Pietro La Corte. L'appuntamento, come sempre, è a sabato prossimo. Ciao! L'altra Europa. In collaborazione con Euronet Plus.